Ed ora, per concludere, c'è anche un messaggio del professor Scoppola, ma penso che lo potremo mettere agli atti. Per concludere, data anche l'ora tarda, la parola al rettore della nostra università, Fulvio Zuelli. Sono stato l'ultimo tra coloro che mi hanno preceduto, ma anche della maggioranza dei presenti, a conoscere Bruno Kessler. Un bel rapporto, ma breve, troppo breve. Ma certo ultima non è stata nella sua mente e nel suo cuore l'istituzione che oggi qua ho piacere di rappresentare, l'Università di Trento. Mi è gradito ricordare qui che l'ultima lettera che ho ricevuto dal senatore porta la data del 28-29 gennaio 91. In quell'occasione mi comunicava che in Senato, in aula, era stato accolto un suo emendamento, da me calorosamente sollecitato, con il quale si riconfermava alla nostra università l'autonomia attuale, praticamente annullata nel testo approvato in commissione. Mi riferisco al disegno di legge sull'autonomia universitaria, poi bloccato. Credo sia stata la sua ultima battaglia parlamentare, la fatta per questa università. Una università anomala per certi aspetti. Da un lato una università statale, però dotata di peculiare autonomia, ma anche chiamata per legge a rispondere alla particolare situazione autonomistica locale. Un connubio non facile, un progetto molto peculiare. Ed assicuro che come rettore talvolta sento il peso di questa situazione, ma anche tutti gli stimoli e gli incentivi propri delle imprese complesse. Bruno Kessler fu lucidamente consapevole di questo. Da politico intelligente e pragmatico, ben sapeva come non potevano bastare le parole di una legge per garantire l'attuazione del suo progetto. Nacque allora dalla sua fantasia quell'articolato disegno istituzionale fondato sull'Istituto Trentino di Cultura e sulla Università. Due strutture autonome, pienamente funzionanti anche nella separatezza, ma concepite come strumenti necessari ed indispensabili per la realizzazione del suo progetto. Una, l'Università, statale, espressione e catalizzatore di forze culturali in gran parte estranee alla realtà locale, l'altra istituzionalmente strumentale alle esigenze culturali locali. E proprio qui sta la grandezza del disegno. Poiché solo da una piena collaborazione, peraltro non obbligatoria, nel pieno rispetto dell'autonomia della ricerca, entrambe le istituzioni possono realizzarsi al meglio e raggiungere livelli di eccellenza. Era un modo intelligente, molto intelligente, per invogliare il mondo universitario ad essere sensibile alle particolari esigenze autonomistiche locali, a misurarsi con esse, anche eventualmente con la provocazione, così alimentando con forze nuove l'Istituto Trentino di Cultura, sede primaria della ricerca e dell'elaborazione culturale per la gente trentina. Convincere insomma i non trentini a porre le loro energie e conoscenze al servizio di questa autonomia, in qualche modo obbligata così a confrontarsi con il diverso e con l'esterno. Un'autonomia concepita come fatto dialettico, come continuo divenire e che proprio perché tale sarà capace di riaffermare e rafforzare i propri valori in un rapporto di costante verifica ed aggiornamento. Questo Bruno Kessler chiedeva al binomio Università-Istituto Trentino di Cultura. Non sempre i grandi disegni sono di facile realizzazione e comprensione. Nessuna critica. L'importante è continuare a crederci anche quando naturali e normali ostacoli ne frenino l'attuazione. Oggi, questo che importa, esistono tutte le condizioni per dare vera e produttiva concretezza a quel progetto, purché ognuno si assuma le sue responsabilità con coraggio e coerenza. se in quel progetto crediamo, se vogliamo continuare a realizzarlo, personalmente sono pronto a dare il mio contributo come uomo, come docente universitario, oggi come rettore. E non per costruire un monumento alla memoria, ma al futuro, un inno alla progettualità e alla vitalità di un uomo che ha operato per dare più ricchezza alla sua gente. Parlo di ricchezza culturale, l'unica, che non teme il decorso del tempo, che non teme inflazioni, che non teme deterioramenti e che possiamo lasciare integra ai nostri eredi. Questo è quanto credo si possa e si debba fare per ricordare e onorare Bruno Kessler. Molto bene. Non potevamo concludere meglio questa commemorazione e posso assicurare che da parte mia mi ritrovo pienamente nella sua interpretazione di questa intesa fra l'Università e l'Istituto Trentino di Cultura e penso che senz'altro insieme faremo uno sforzo per non essere indegni della continuità di questa grande memoria. Con un devoto ossequio la signora che è della famiglia, un grazie ai relatori, grazie a tutti voi che siete presenti, dichiaro conclusa questa commemorazione. Buonasera.